Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. Qua per una nuova puntata di Obbligo di Frequenza, una puntata, come dicevamo prima, un po' speciale, perché siamo ancora qui in compagnia di Alberto Pellai e Nicoletta Carbone, che ringrazio. Io sono stata ospite da loro, loro sono ospiti da me. Oggi facciamo questa... Ci scambiamo le visite. Che bello, dovremmo farlo più spesso, perché ci divertiamo anche. E lo facciamo, continuiamo chiaramente a parlare in occasione della giornata mondiale del Braille, di disabilità a scuola in particolare in questo momento, e lo facciamo con un ospite, Giancarlo Abba, direttore scientifico dell'Istituto dei Ciechi di Milano ed ex preside della scuola di Via Vivaio. Poi vi spieghiamo di che cosa si tratta, perché è davvero una cosa un po' particolare nel panorama italiano. Buongiorno Abba. Buongiorno. Buongiorno. Cominciamo a parlare della scuola di Via Vivaio, perché è davvero una cosa un po', come dicevamo, particolare, no? Nel panorama italiano, perché è una scuola storica, nata tantissimi anni fa e nello specifico per i non vedenti, poi si è un po' trasformata, lei ne è stato il preside, ce la racconta un po' questa esperienza? È una scuola che nasce come scuola media statale per ciechi con la legge dell'obbligo scolastico nel 1963. E poi dal 1975 ha cominciato un'esperienza chiamata di coeducazione con i vedenti, perché negli anni che sono andati dal 74 al 77 sono arrivate quelle importanti leggi che parlavano dell'inserimento prima e dell'integrazione dei ragazzi con disabilità. Questa scuola cosa ha fatto? Ha detto: manteniamo la specificità relativa ai non vedenti, e però li facciamo studiare, facciamo condurre la scuola, questo parliamo di scuola media, con bambini, ragazzi, con ragazzi vedenti. Vedenti. Ecco, e questo è avvenuto dal 1977. Sta andando avanti anche adesso, c'è quindi un personale che è di fatto qualificato, perché viene anche da un'esperienza passata, come stava spiegando, di questo tipo, però oggi i ragazzi vedenti e non vedenti siedono agli stessi banchi. Certamente. Di questa scuola media. Sì, sì. Ecco, però in realtà non è più una scuola media solo per bambini, come dicevamo, non vedenti, perché parliamo della realtà milanese e lombarda più in generale. Tra l'altro un'esperienza molto positiva e una realtà anche, diciamo, di eccellenza nel panorama italiano, perché sono tantissimi i bambini non vedenti, sono più di 200, mi diceva, e sono distribuiti ovviamente nelle scuole normali, ma voi li seguite come istituto italiano, come Istituto dei Ciechi di Milano, con percorsi molto particolari? Beh, noi abbiamo in realtà in carico 250 bambini che vanno dalla scuola materna alla scuola superiore. E ci sono da parte nostra, come Istituto dei Ciechi, delle convenzioni per quanto riguarda la Lombardia con le province di Milano o Cremona, piuttosto che Lodi o Varese, eccetera. E con queste convenzioni noi praticamente facciamo un'azione che si chiama di consulenza tiflo-pedagogica, dove tiflo sta per cieco. E quindi questa nostra consulenza che cos'è? È un incontro con gli insegnanti, periodico, durante tutto l'anno scolastico, dove si danno metodologie, strategie didattiche, materiale didattico e libri di testo o in braille o caratteri ingranditi per i ragazzi ipovedenti. Come funziona nella pratica? La famiglia con un bambino, un ragazzino non vedente, diciamo un bambino perché ovviamente la problematica inizia dalla materna, si rivolge a voi, a quel punto intervenite presso la scuola, presso la famiglia? Sì. E quando noi abbiamo la segnalazione, che può venire dal territorio, da insegnanti, può arrivare da varie parti la segnalazione, il bambino viene preso in carico al servizio, e quindi noi sostanzialmente agiamo su tre grandi filoni: c'è il territorio dove il bambino vive, c'è la famiglia e la struttura scolastica nella quale andrà. Su questi tre filoni l'equipe pedagogica dell'Istituto dei Ciechi interviene e quindi comincia praticamente a fare un lavoro di rete, incontra la famiglia e struttura con la famiglia azioni, comportamenti che sono il meglio, diciamo, per il bambino, per quella che è la sua autonomia. Ecco, lei mi raccontava che poi andate anche nelle case a volte praticamente a impiantare computer particolari, a volte quando è necessario. insegnare ai ragazzini come si usino. Esatto, il nostro esperto informatico va anche presso la famiglia o presso la scuola, perché il bambino non vedente, il ragazzo non vedente usa il computer come noi lo conosciamo, anche noi vedenti, però ha alcune derivate, diciamo, alcune periferiche che sono specifiche, perché esiste una cosa che si chiama la barra Braille piuttosto che la sintesi vocale, eccetera, e quindi per rendere il bambino o il ragazzo autonomo nell'uso di questo strumento. Certo. Dottor Abba, volevo chiederle, questo sicuramente la scuola di Via Vivaio è un esempio di eccellenza, nel resto d'Italia come vanno le cose? Ma noi, la scuola di Via Vivaio ha quell'esperienza ed è una scuola media. Noi come istituto, le ho detto il servizio che facciamo, e nel resto d'Italia la situazione è un po', come si dice in genere, a macchia di leopardo, cioè nel senso che ci sono realtà molto efficienti, molto funzionanti, e altre realtà che invece per tante ragioni di tipo locale, eccetera, sono anche in sofferenza. Il disegno naturalmente che dovremmo, come dire, tenere ben presente è quello che, se noi parliamo di integrazione per i ragazzi disabili della vista, occorre fare di necessità certe azioni concrete per l'apprendimento, per lo sviluppo, per lo studio, perché senza alcune cose essenziali, importanti, noi non diamo al bambino non vedente strumenti per poter attuare, insomma, una crescita e uno sviluppo completo. Dottor Abba, cosa impara un compagno normovedente dal suo amico di banco non vedente? Guardi, impara intanto a relazionarsi, a mettersi in comunicazione con una persona che in questo caso non ha la vista, e quindi impara il valore della comunicazione, impara un grande valore dell'integrazione, perché io scrivo in nero, cioè la nostra scrittura, tu scrivi in Braille e tutti noi leggiamo e scriviamo sulle stesse cose, quindi abbiamo una grande, come dire, un grande esempio di integrazione e di equità. Perché non è importante tanto il Braille quanto il nero, tutti e due leggiamo il Manzoni, per esempio. Certo, con strumenti diversi, ma... Con strumenti diversi arriviamo alla stessa stazione, certo. Con mezzi diversi arriviamo alla stessa stazione. Dottor Abba, lei ha un ospite lì accanto a sé, sì. E un ospite anche interessante, perché con lui possiamo riprendere un po' tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. È lì con lei infatti Franco Lisi, responsabile del settore informatico dell'Istituto dei Ciechi di Milano, ed è un suo ex studente peraltro. Quando sono arrivato all'istituto, che ero molto giovane, ho conosciuto, anche perché poi era nei miei gruppi, eccetera, questo bambino che si chiama Franco Lisi, e quindi insomma direi che lo conosco ormai da molti anni, come da studente fino alla sua laurea, eccetera. Ok, allora adesso parliamo con Franco Lisi. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Era un bambino, ora non lo è più. Sono passati un po' di anni. Però aiuta gli altri bambini invece, no? A farsi strada con gli stessi strumenti che lei ha utilizzato. Purtroppo non con tutti gli strumenti, in quanto sono passati anni luce da quando io ero bambino, per cui per fortuna oggi ce ne sono molti di più, grazie al cielo. Da questo punto di vista, esattamente, i ragazzi che frequentano le scuole comuni, le scuole di tutti oggi, possono avvalersi, come si diceva prima, della tecnologia per scrivere, per leggere come gli altri. L'importante non è come si scrive, si diceva molto bene, ma credo che sia fondamentale ciò che scrivi, no? Il contenuto di quello che scrivi. Oggi lo strumento, il computer in generale, presenta tantissimi vantaggi: quello di condividere materiali, compiti in classe, quello di produrre materiali attraverso lo scanner. Una volta, e sto parlando di 20-30 anni fa, i compiti si dovevano trascriverli manualmente, no? Quindi doveva, su dettatura, si utilizzava il punteruolo, la tavoletta, la macchina per scrivere. Era ben più complicato. Era molto complicato, e soprattutto era un dispendio di energie, di ore, di tempo notevole. Si arrivava alle 8, alle 9 di sera, e per preparare i compiti su cui poi si doveva studiare in orari serali. Oggi invece questa tecnologia, lo scanner, diciamo la possibilità di acquisire materiale attraverso supporti di memoria, penso alle chiavette USB, ai CD, alla stessa internet, consente sicuramente una efficienza, una diminuzione di tempi di realizzazione, una condivisione con gli insegnanti, con i ragazzi di molti compiti. Noi possiamo utilizzare il computer attraverso quello che si diceva prima, una tipologia di strumentazione denominata tecnologia assistiva. Non è altro che un dispositivo hardware, cosiddetta barra Braille, display Braille, insomma non ha importanza il nome, che viene collegata al computer, per come lo conoscete tutti, lo conosciamo tutti, attraverso una tecnologia molto flessibile, la famosa porta USB, no? Certo. La Bluetooth. E quindi insomma, benedette tecnologie nel vostro caso davvero sono state indispensabili e lo sono tutt'oggi per i ragazzini a cui lei insegna per studiare e per arrivare a quel manzone di cui parlavamo prima e arrivare allo stesso risultato. Grazie mille, grazie a Franco Lisi, responsabile del settore informatico dell'Istituto Ciechi di Milano, e a Giancarlo Abba, direttore scientifico sempre dell'Istituto dei Ciechi di Milano. Ringrazio qui anche Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Invitaci più spesso, noi veniamo volentieri. Si sta benissimo. E saremo puntuali. E saremo puntuali. Grazie. A sabato prossimo, come sempre, alle 12:45.